sono chiacchiere distintivo, sono chiacchiere. Quando Tarsal Moore comincia a canticchiare la sua Disconnection Notice. L'avviso di disconnessione dei Sonic Youth che ci porta in un territorio. E magari, come direbbe un'altra trasmissione, Boninoctibus Panis Fagiolino, in uno spazio-tempo. Ma qui usciamo anche da quella dimensione per entrare in quella del caos e della follia. Come sapete, invece, questa puntata, questa notte, abbiamo preparato una selezione di dischi, incredibile. Era tanto che non si faceva una roba del genere. Con ciò comunque vi rammento, vi ricordo che siete all'ascolto degli 87.9 della banda romana e laziale, corrispondono alla frequenza di Radio Onda Rossa. Dal 1977 siamo qua, non proprio su questa frequenza, certo, perché la frequenza è cambiata. Più di 20 anni fa, sicuramente. Beh, insomma, dai, non ci ricordiamo esattamente tanti anni fa. Invece il luogo da dove si trasmette è sempre quello. Via dei Volsci 56, al primo piano di Via dei Volsci 56. Ed è questo il luogo dove volete e dove, se volete, potete venire a contribuire per la radio, a farvi la tessera di Radio Onda Rossa. Penso ve ne daremo qualcuna, la troviamo, se proprio ci tenete. O comunque per sottoscrivere il radioabbonamento. Ma se avete il culo pesante, cioè se non vi va di spostare, di muovere le gambucce e venire qua negli studi, e crediamo che se siete molto lontani da qui, magari convenga fare altrimenti. L'altrimenti è ovviamente quella che è la campagna vera e propria di radioabbonamento che abbiamo lanciato e che durerà per molte settimane ancora, per tutta l'estate, che si chiama il radioabbonamento 30 per 1000, che sta a significare che 30 euro per 1000 di voi fanno la risoluzione dei problemi finanziari di Radio Onda Rossa, che sono sempre perennemente annosi e presenti, e in particolar modo in un momento come questo, quando i problemi finanziari ce li abbiamo tutti e tutte. A me personalmente mi sono arrivate 270 euro di bolletta dell'Enel, ma penso che tutti e tutte quante, al di là dei coming out, diciamo, finanziari, che ci fanno un po' rodere, ecco, come dire, però ci siamo capiti, insomma, questo è il problema principale. Malgrado questo, come facciamo noi e come fate, avete sempre fatto voi, cacciare 30 euro in un anno è una somma che pensiamo ancora possa essere alla portata di tutti, insomma quasi tutti, al di là delle difficoltà. Quindi www.ondarossa.info, andate sul sito, c'è il bannerino, ci cliccate dentro e procedete con il radioabbonamento. svelti, veloci, fatelo tutti e tutte. Il sito dove trovate tutto della radio, tutto quello che è importante, i podcast delle trasmissioni, delle corrispondenze, delle rassegne stampa, delle rassegna stampa, tutto al singolare. Dove ci trovate un po' di storia della radio, i materiali, gli appuntamenti, anche quelli a sostegno della radio che vi andremo a illustrare poco più avanti. www.ondarossa.info, diciamo il sito, ondarossa@ondarossa.info per le vostre comunicazioni via mail. Poi ci stanno i social, poi c'è sta 25 o'clock@ondarossa.info, 25 scritto al numero o'clock@ondarossa.info per contattare a noi altri, e che ve lo dica a fare. Qui c'è una luce rossa spenta, si accende quando voi componete lo 06 491 7550. Fatelo in fretta. 23 e 12 minuti primi, questo personaggio che avete ascoltato e di cui la traccia è appena terminata è Steve Von Till. Abbiamo ascoltato la seconda traccia tratto dal suo lavoro del 2020 che si chiama No Wilderness Deep Enough. In realtà avevamo selezionato, volevamo mandare questa traccia qui, cioè Indifferent Days. Comunque, insomma, è abbastanza indifferente, se permesso così ripetere lo stesso concetto. L'ascolto di una o l'altra traccia del disco, perché questo è un disco intero che va ascoltato per tutta la sua lunghezza, tutta la sua ampiezza, ma soprattutto per tutta la sua profondità. Scars never bled. Una profondità che è espressa anche nel titolo, con cui ci troviamo abbastanza totalmente in sintonia. Steve Von Till dal 1989, dal 1990 praticamente, anche chitarra e voce di Neurosis, progetto per ora così dormiente da ormai 7-8 anni. Ma nel frattempo, appunto, Steve Von Till scava profondo. The emptiness swallows a soul. Nell'anima, nelle emozioni e nella natura selvaggia. Personaggio che ci ha pure copiato il look, diciamo il modo di presentarsi, ma d'altronde è più piccolo di noi, quindi ci possiamo permettere. The wilderness inside our minds. Questo pizzico di megalomania. Fatto sta che abbiamo citato i Neurosis e non possiamo che mandare in onda The Wind, tratto dal lavoro che si chiamava Given to the Rising. Che risale al 2007, quindi Neurosis, Given to the Rises. Terza traccia, To the Wind. 23:30 to Ostend. Ancora Neurosis, andando ancora indietro nel tempo, il primo disco, The World Is Slow. Con l'introduzione alla chitarra di Steve Von Till, in questo caso era Scott Kelly che invece urlava. Questo To Ward the Slow, a nostro avviso, è un disco importantissimo perché fa così da confine, da territorio spartiacque fra i Neurosis precedenti e quelli successivi, e quindi verso la sperimentazione post-core dopo, e invece provenienti dal crust, dal punk hardcore prima. E questa commistione, questa ancora così non precisa indicazione di rotta, fa di questo disco un ascolto favoloso, insomma, pieno di energia, di rabbia allo stesso tempo. E qui si sente appunto l'ingresso di Steve Von Till di profondità. ...23:32 minuti primi all'ascolto di Radio Onda Rossa, questo è 25 o'clock. Ci eravamo ripromessi di organizzare una puntata su Mark Lanegan, gli Screaming Trees, un po' i progetti che giravano in quegli anni. Non l'abbiamo ancora fatto, ci prendiamo ancora del tempo per farlo, così anche per trovare i giusti referenti. Nel frattempo ci andiamo ad ascoltare il disco del 2021, l'ultimo disco per quanto riguarda Mark Lanegan, il definitivo, come dire. E anche questo è un disco bello, una bella eredità, insomma, un bel lascito, come si dice. Siamo sempre nel territorio delle ballads, essenzialmente cupe, per lo più grigie, oscure. Strike Song of Sorrow si chiama questo lavoro del 2021, ci andiamo ad ascoltare la 14ª traccia, At Zero Below. Mark Lanegan a 25 o'clock, Radio Onda Rossa. On the night I can't forget, I burn my love with a cigarette, a telescopic eye had seen the grass on grapes so evergreen. I'd rather not address. How did I get here into such an ugly mess? Got myself carried away despite all common sense. How could I be so dense? I got hurt. E 42 minuti primi, le frequenze di Radio Onda Rossa e queste note così lieti, accondiscendenti, in realtà nascondono una travagliata e dolorosa coscienza, che è quella di Mark Oliver Everett, e cioè il personaggio intorno a cui gira, ovviamente, l'ispirazione degli Eels. Sometimes that's what a day'll do to you. There were times I didn't think that I'd see the sun. Anno 2020, Earth to Dora. And that was fine by me. For being alive. È uscito un ultimo lavoro degli Eels di cui però non abbiamo ancora avuto modo di ascoltare i suoni e le note e le ballate. E non poteva essere che travagliato il mondo di Hills. Mark Oliver Everett, poiché così buon sangue non mente, il papà, il padre, è ben conosciuto in certi ambienti scientifici in quanto fu il promotore della teoria dei molti universi della fisica quantistica, che era opposta, diciamo, che si distaccava dal gruppo di, da quella espressa dal gruppo di Copenaghen. Quella perché, diciamo così, cercando di spiegarlo in parole povere, concludeva con il collasso dell'onda delle probabilistica. Le misurazioni quantistiche, cioè di oggetti quantistici, che erano così, non erano possibili da misurare se non considerando il sistema misurazione più misura effettuata. Quindi così, contraddicendo in qualche maniera gli assiomi stessi della scienza, cioè la non riproducibilità di un esperimento, in quanto quando si fa una misurazione quantistica, questa dipende anche da chi la misurazione la fa. Al contrario, invece, Hugh Everett propose che ogni volta che si effettuava una misurazione, si proponevano da quel momento in poi due possibili universi, due possibili mondi separati. Che evitavano quindi il collasso della forma d'onda, vabbè, una roba abbastanza così. This is going pretty good. Difficile da applicare ai nostri sensi, abituati a una realtà. But every day since I kiss. È una sensibilità proprio umana che si è sviluppata nella storia, nella cultura, nel modo di vedere le cose e il mondo. E che però nello studio delle particelle subatomiche, insomma, subisce la non applicabilità di quello che normalmente percepiamo con i nostri sensi. E a proposito di questi mondi, o molti mondi, che potrebbero portare a destini differenti, andiamo ad ascoltare gli Idols, quindi, dal loro ultimo lavoro, Crawler. La prima traccia prende il nome di una sigla, MTT-420RR. Che cos'è questo MTT-420RR? È una motocicletta prodotta con un motore normalmente installato negli elicotteri, un motore Rolls-Royce. Una motocicletta che penso sia la più costosa del mondo, dovrebbe essere oltre i 200.000 euro. Girl, bring the joy. Get those high boots on. Dance until God... Con una potenza superiore a quella di molte super macchine, supercar, e che raggiunge la velocità di 400 km orari. Perché si chiama così? Che Joe Talbot ha fatto un incidente di moto nel quale al momento ci lascia le penne e quindi è rimasto così, probabilmente nel nostro mondo, oppure magari è morto e sta in un altro universo, però continua comunque a suonare, o è morto in un altro universo ma continua a suonare invece negli Idols e piuttosto bene. Questa è la sua testimonianza, diciamo, dello scampato pericolo, almeno in questo mondo. Una traccia praticamente che ripete sempre la stessa frase, insomma, che comunque era ubriaco, guidava la sua di motocicletta. Ed è andato lungo. Idols. The swell of heaven on Are you ready for the storm? Ripete all'infinito Jotalbot. Ma noi ci fermiamo un attimo perché vi annunciamo venerdì 20 maggio, 21 sabato, 22 domenica. Festa di compleanno di Radio Onda Rossa, 45 anni. 45 anni di disturbo dell'etere, 20, 21, 22 maggio 2022 al centro sociale occupato, autogestito, ex Snia Viscosa, via Prenestina 17300. 176, che ci fate col cap? Bah, comunque c'è. Tre giorni di festa per sostenere Radio Onda Rossa, ballando, cantando e lottando insieme, poco alla volta. Sveleremo il programma, dice, recita così la pagina web della radio. Noi, come già annunciato, piano piano lo sveliamo. Sicuramente il pezzo forte sarà Orasi, mo vi aspetterete il disco di Orasi. E in effetti era previsto, ma poi alla fine il disco ce lo siamo dimenticati. Ai. Nel frattempo ci andiamo ad ascoltare il doppio lunghissimo. Le tracce non sono numerate, quindi non mi ricordo mai quante sono, bisognerebbe contarle. Coprono veramente tutta la copertina la parte sinistra della copertina del disco, e sono scritte veramente piccole. Dal primo disco ci andiamo ad ascoltare quella che è la nona traccia, che si chiama A Fly's Woman. E quindi i Melvins a Radio Onda Rossa, 25 o'clock, dai. Perché per chi ama i Melvins, e ritornando al vecchio detto, quindi consapevoli del vecchio detto che i Melvins o si odiano o si amano, per chi ama i Melvins questo doppio acustico è una vera full immersion nella loro storia, più le immancabili cover. Sette minuti dopo la mezzanotte, stiamo ancora indietro, abbiamo tanta roba da mandare. Chissà se ce la faremo, perché siamo veramente a tocchi. Onda Rossa 87.9 della modulazione di frequenza. E nel mentre che chattiamo con Ciccio, cioè la parte narrante, recitante del progetto La Morte, annunciamo proprio una loro traccia che è Givova. È un esperimento con testi di Stefano Edda, lo ricordiamo, alla voce nel ritmo tribale, vecchia band degli anni 90-2000, e questa è la storia raccontata. Stamattina di un prestissimo che più presto non si può, di un prestissimo che sa di anni 13, di un prestissimo che potrebbero essere le 4, ma invece l'ora della morte, mi alzo bestemmiando un dio a caso. Uscendo vado a fare la spesa in via Padova, in giro non c'è nessuno, a parte qualche morto in coma etilico spiattellato sulla strada. I bar sono chiusi, i negozi pure, risparmio, faccio prima. Passo sempre davanti ad un locale dall'arredamento equivoco, da cui se ci fai caso esce una musica di merda, ma nonostante quello è un faro prezioso nella notte fredda e rimastina. Oggi un ragazzaccio approssimativo con un bicchiere di plastica in mano, approssimativo anch'esso e colmo fino all'orlo, mi chiede avvicinandosi: che c'hai, la cocaina? Sì, e rispondo che l'ho finita, anche se non è vero. Ma tu, straniero dall'alito cipollato, mi vedi in tuta citata della Givova, sto facendo le ripetute e quindi in piena situazione anaerobica, a rischio infarto, come ti può venire in mente che io sia un tossico? E poi sono in una fase della vita in cui sto dando la priorità alla creazione artistica e dove anche la figa mi crea un blocco emotivo. Cercavo di dirgli tutto questo in rumeno, ho avuto un'epifania, mi sono ricordato del presidente della Repubblica, Giovanni Leone. Lo incontrai prima che venisse travolto dallo scandalo in seguito alle rivelazioni del libro di Camilla Cederna, edizioni Feltrinelli, copertina con foto in bianco e nero e titolo in giallo. Stava facendo un pellegrinaggio a piedi da Napoli al santuario della Madonna di Pompei per una grazia ricevuta afferente alla guarigione di suo figlio. Rimasi molto commosso dal suo racconto, ma qui c'è uno spacciatore da affrontare e il Brumotti che c'è in me sta pensando a come fargli venire una crisi morale. Oggi è il 15 di ottobre, tu ce l'hai il Green Pass per lavorare? Mi ha regalato un sassolino per il senso di colpa e il vulnus lacerante provocatogli nella carne della sua coscienza. Mm-hmm. ballerine e condottieri. La faccia mano armata, la cordata consacrata dei banchieri. Alfieri di un sistema che ti porterà in trincea. Qualunque scelto credo, qualunque la tua idea. Contro il genio guastatore disinnesco bombe in un tracciato controllato dalle sonde. Incombe lo scenario di un conflitto planetario. Il profitto crea divario, io rifiuto il corollario. Mi danno dei motivi ed un nemico immaginario. Ma tra i piranha nell'acquario riconosco il mio avversario. Contrario al sogno del progresso, al compromesso. In questo porto franco dove paghi e ti è concesso. La guerra è qua adesso e ovunque. Non puoi essere assolto se coinvolto chiunque. Qualunque Charlie in guerra è un bersaglio. Qualunque Charlie paga con la vita il prezzo di uno sbaglio. Cerca uno spiraglio, Charlie allo sbaraglio. Ma Charlie nella giungla non lo tieni col guinzaglio. Charlie sul filo del rasoio senza un taglio. Combatto la mia guerra, Charlie non me la squaglio. Charlie Lagunari senza l'uso del boccale. La giurma samutina che si fotta l'ammiraglio. 20 luglio, un giorno che ha cambiato la mia vita. Otto infami in gita con gli artigli sulla tavola imbandita. La partita mi reclama nella trama del racconto. Hai mangiato nel mio piatto, adesso paga il conto. Confronto la vita è una guerriglia. Cammino per la strada e per la strada una famiglia. Gente che bisbiglia, l'infame dietro l'angolo che origlia. Lontani dalla merda che profuma di vaniglia. Bring the war home. Bring the war home. Bring the war home. Bring the war home. Bring the war home. Bring the war home. Bring the war home. Charlie, bring the war home. Bring the war home. Bring the war home. Bring the war home. Bring the war home. Bring the war home. Bring the war home. Bring the war home. Charlie, bring the war home. Resistenza popolare contro il TAP. Sassi in Palestina contro i tank punk. Contro i piedi piatti della tua città. Centinaia di wall car. Un esercito di writers che devasta nelle yard. Hardcore, in botta con l'indoor. Forgiato in un campetto dove vivi se fai score. Qui la gente muove chili per spaccare. Li muove per scappare. Muovo passi in questo mare per non annegare. Vivo l'illegale sopra il tuo giornale. Nelle pagine di cronaca intonaca il murale che io scrivo. Tu provoca, io schivo il tuo dispositivo. Ho imparato per la strada e sono ancora vivo. Sopravvivo al tuo controllo che mi fiata sopra il collo. Tra carota, manganello, teste vuote col coltello. Da pischello ho imparato la lezione. Resto dalla parte giusta con la mia passione. Conosci il nome? Checkpoint Charlie nel rione. Al bastione dell'oracolo del sud. Vincere o soccombere nel nome di Ned Lud. Distruggere dal nulla per risorgere. Insorgere sogni disperati che non vogliono demordere. Addestrati a mordere. Branco che si muove nelle tenebre. Mi muovo nelle tenebre. Azzanno le tue vertebre. Cane mangia cane, ci si sprana per il pane. Specchio, specchio, specchio delle tue brame. Checkpoint Charlie è il padrone del reame. Specchio, specchio, specchio delle tue brame. Checkpoint Charlie, pandemonio sul catrame. Specchio, specchio, specchio delle tue brame. Checkpoint Charlie tra le iene con la fame. Specchio, specchio, specchio delle tue grane. Api senza legge che sconvolgono lo sciame. Bring the war home. Bring the war home. Bring the war home. Bring the war home. Bring the war home. Bring the war home. Bring the war home. Charlie, bring the war home. Bring the war home. Bring the war home. Bring the war home. Bring the war home. Bring the war home. Bring the war home. Bring the war home. Charlie, bring the war home. Ed era il 2007, 2008, 2009, non ci ricordiamo. Comunque, Bring the War Home, nessun testo poteva essere più appropriato e profetico di questo per quanto riguarda Jolly Roger. Che ho detto? Beh, vabbè, non è che è embriaco ciccio, dai. Siamo embriachi noi. Nessun testo poteva essere più appropriato e profetico di questo Bring the War Home per quanto riguarda Signor K. Sono un reietto, signor giudice. Vengo al suo cospetto dalle bettole più sudice del ghetto. Non mi curo del verdetto né dell'ordine che invoca il mar. 0649 1750, recapito telefonico di Radio Onda Rossa. Questo è 25 o'clock. Piange lacrime e sudore sopra un sogno lastricato, eterno congiurato. Che sfarfalla anche senza essere imbriaca. Che mi infama, mi accompagna sulla forca. La mia fetina è sporca. Qualche motivo ci sarà. Fatevi delle domande. La crociata che l'hai sporta. Giuste e le risposte se verranno da sole. Potenti la farla andare, la giustizia va. Quello che... passiamo a un'altra proposta qui di 25 O'Clock. Non sappiamo se si è diffuso nel frattempo Swarovski il lavoro di Pavel. Musa ispiratrice, la mano che accarezza la purezza di Beatrice, la mano che accarezza. Fino a un paio di settimane fa, tre settimane fa, era ancora inedito, diciamo, per la maggior parte degli utenti. Il fatto degli onesti, credevo fosse pace sulle. Non era uscita su nessuna piattaforma, ne avevamo così un'anteprima. Fortunata. Umani che si lavano le mani, che ti sporcano le ali, ideali inchiodati ad una croce, la giustizia è solo un sibilo mendace, la sovverchia è un'altra voce, audace tentazione, è la nuova mia ragione, tu mi chiedi. E quindi da Bologna, Pavel. Da uno schiaffo e una carezza, stai pur certo che ha due pesi e due misure. Champagne, Gascogne, Voodoo, Terror Noir. Paura anche ai più giusti. A Radio Onda Rossa 25 O'Clock. La guerra di Zapata, la fabbrica occupata, spaccata, milionaria, la diaria degli schiavi non ci basta. Siamo bravi che sono il culo tosto. È vero, sembravano come impazziti, non sapevano più che cosa fare. Poi hanno preso la loro roba e sono spariti. Dove sono andati? Verso l'interno, a fare il voodoo, credo. Sono stati solo peccatori. Ora si è fermato. Ma io ti ho visto minuti dopo la mezzanotte con Pavel da Bologna. Abbiamo avuto anche modo poi di chiacchierare, oltre che in diretta con lui, di storie passate che ci avevano così tenuto. Ci avevano allontanato in questi anni. Sono al comando della Vectra. Gli occhi sulla strada, ma d'altrove la testa. Sorpasso a destra l'angoscia. Storie passate così che oggi non pretenti. Parole dette al volo di cui subito ti penti. Hanno tutto l'aspetto di cose di un tempo, visto gli enormi avvenimenti che sono successi nel frattempo. Sull'asfalto penso a Magali biondo. E anche così, magari, nostra opinione. Che alcune divergenze di opinioni poi non sono così divergenti in realtà, viste appunto con gli anni sovrapposti uno all'altro. Odia così duro che un fratello mi sa che ha preso il muro. Vabbè, noi andiamo avanti. L'umore a terra, tipo tappeto irane all'um. E di colpo all'orizzonte scaduto, deforme il mondo. 2016. Ritorniamo negli Stati Uniti. E questo era quello che veniva chiamato Extreme Alternative Hip Hop. Un po' distante da, in realtà, da dalla trap. Resti rimesti sui perché a detti stretti, perché probabilmente viene anche da ambienti e luoghi un poco differenti. Sicuramente ne parlavamo proprio con Pavel, questo tipo di espressioni, apro virgolette, giovanili, hanno molto a che fare col contesto sociale e si sporcano, ci sporchiamo andando a toccarle veramente con la merda della società, ma ne sono appunto l'espressione e altrettanto stesso la profonda contraddittoria umanità. Loro ci giocano molto su questa roba, sono Death Grip, ovviamente dalla California. Ma nessuno di voi potrà avere nulla più di quanto ha. E questa dal lavoro Bottleness Trip, la quarta traccia, Warping si chiama, quindi Death Grip a Radio Onda Rossa, 25 o'clock. Falling out in tune, warping, all I do is lose my. Che non può partire che con un'esplosione da capo. Falling out in tune, I'm a bruiser, warping, all I do is lose my form. Falling out in tune, I'm a bruiser, warping. All I do is lose my form, I'm warping. Influence, executed, mass execution, rapid improvements, toothless accent, draws of a shaman, putrid, fanatic, right outright. Falling out in tune, I'm a groozer, more. sign your surrender. Sign of the freak, swiping on a bender. Forbidden, discipline, all lines disconnected. Vacated, premises occupied by my chest. We're falling out in tune, now my grooves are warping. All I do is lose my form, I'm warping. Tune, now my grooves are warping. All I do is lose my form, I'm warping. Master of entrails, stagnant slung under cement bales. My traffic hums, compulsion arises in stranglers, knuckles. The temples buckle, decompression, silo inside this muzzle overdriven. It don't mean shit if you ain't happy though. And happiness is all that matters, just I hope you know. And fuck it, let's just see what happens. Take a risk, let's take a trip. We swerving off the Birdman, hope we don't hit the dip. Ayy, all my Post Malone shit. Now I got my own bitch. Money that I spent, so now you know I fucking own shit. Yeah, I'm on my own, feel alone. Drink Patron, got them evil bitches all up in my motherfucking zone. Ayy, ayy, and why you never answer phones? Ayy, ayy, and yeah, I'm chillin' home alone. Back in high school, she didn't want me. Now that shit changed, now her family show me praise. That shit seem like super strange. Under the moonlight, she said she felt the mood right. And said, is everything right? We drunk up off that moonshine. We look up at the starlight. She looked just like the starshine. I gave that bitch my sunshine. It's peeking through the high rise. It's peeking through the... Ayy, but they don't mean shit if you ain't happy though. And happiness is all that matters, just I hope you know. And fuck it, let's just see what happens. Take a risk, let's take a trip. We swerving off the Birdman, hope we don't hit the dip. White Mercedes, whip it, do 150, hope I do not crash. Fuck that bitch, then hit the dash. Fuck that bitch, then hit the dash. I be on my superhero, baby, let's just fly away. Go away, if you broke my heart, I hope you go away. Yeah, under the moonlight, she said she felt the mood right. I told her hold my hand, she said it's everything right. We drunk up all that moonshine, we look up at the starlight. She looked just like the starshine. Hey, hey. But they don't mean shit if you ain't happy though. And happiness is all that matters, just I hope you know. And fuck it, let's just see what happens. Take a risk, let's take a trip. We swerving off the Birdman, hope we don't hit the dip. Ancora quegli anni lì, 2016-2017, Little Xan, un personaggio veramente, un ragazzetto, perché classe 1996, veramente impresentabile, praticamente quasi un homeless per gran parte della sua vita. Ha lavorato presto, appunto, si è, non ha finito le scuole superiori, penso il primo anno, qualcosa del genere, è andato a lavorare per varie ditte di pulizia, insomma. Hey, no, you're not from around here. Yeah, yeah, they know you're not from around here. tanto che Lil Xan deriva proprio da Xanax, che era la ditta di pulizie per la quale lavorava. Lo prendiamo così, come come espressione di quel sottoproletariato proprio della di quella California che non c'ha i lustrini, lontana dalle ville di Sunset Boulevard. Fatta spesso di sostanze stupefacenti, o piace i Xanax e altre robe. Vabbè, noi ritorniamo invece dalle nostre parti, perché a Calibro 35 hanno fatto uscire, credo nel 2021, Poser, you an imposter, ayy. All real memes on the roster, ayy. Shout out all the real softies, ayy. Slide up on the fake nigga with the K, real nigga. Quello che non era entrato sul loro lavoro Momentum, quindi post Momentum EP, real nigga, take a fake nigga, con dei remix anche riproposti nel, nei testi. Ancora un discone, un lavorone, né abbiamo copia vinile, però abbiamo dovuto convertire in digitale per, come si dice, per la maneggiabilità in diretta radiofonica del prodotto. Quindi con la voce di Angel Gammon, Stan Lee, Alternative Version, Calibro 32, dai, Radio Onda Rossa, 25 o'clock. Involontario da capo, facciamo finta che avete trillato. Dei villani, il male non lo espelli, per questo invento degli eroi come Stan Lee. Sputo versi tipo un'autoterapia per la vita di chi amo, pronto anche a dare la mia. I buoni cadono come le mosche, non erano poi così buoni forse. Menzogne con le gambe corte vincono alle corse. Io ancora a caccia di risposte, un'altra buona notte senza la buona sorte. Non temo la morte, mami, so che fa parte dei piani. Sai che sarò forte, mami, no problema. C'è una falla nel sistema, ma non si sistema. Niente ormai mi fa più pena, fa la bella piena. Arrivo con un grosso carico, un motivo valido. In mano un grosso calibro, dietro il calibro. Click, boom, bye, no panico. Giustizia non è fatta, ma la vendetta al suo fascino. Giustizia non è fatta, ma la vendetta al suo fascino. E siamo ancora in piedi, senza superpoteri. Ti ho superato ieri. Ci vieni contro, credi. Capelli in faccia, sto seduto sui sedili di una El Camino.

questa era la seconda filastrocca burlesca per quanto riguarda il più dispettoso dei geni, dei folletti della California. Stiamo parlando di T. Seagal. First Dust, questo lavoro del 2019, forse, non ci ricordiamo, non c'è scritto al volo. Facciamo un altro giro di pagina, ce ne andiamo verso le conclusioni dopo le ipertrofie di T. Seagal. E dopo aver ascoltato prima di T. Seagal The Big Reg Machine, the sun don't know how to say to go away. Dal lavoro che si chiamava How Long Do You Think Gonna Last, Big Red Machine, cioè Aaron Dessner, Bon Iver, Justin Vernon dei The National, con un sacco di partecipazioni fra i quali spicca quella di Anais Mitchell, famosa per aver scritto Why We Build the Wall, poi una ballata risuonata e coverizzata da chiunque, che però ha azzeccato un testo fighissimo, insomma, che la dice lunga sui confini, sul mondo, sul mondo occidentale, così chiuso in se stesso, così autoreferenziale. Vabbè, tanto per finire, abbiamo ascoltato The Ghost of Cincinnati, poi T. Seagal, e adesso andiamo a Calambe and Bear Ensemble. Si chiama il lavoro pubblicato per la vecchia Real World. Tokufiction è la decima traccia e poi la undicesima traccia Dancing in the Desert Moon. Un dischetto da consumare nelle ritmiche, ce lo ascoltiamo adesso un pezzo. شدي لغفوك إيا دراس السنتغ الشغلانين يوروين إيا دراس السنتغ الشغلانين إلا كودا التلان كودا وانغلي مطروينين قاس لك الشغلين تيهاردن تنكلت ما شق تي مسلي منكلت ما شق مشي جالي أغني تي أمزل تي بوبه تي مرزادن تي قفقدن إلى الشام أوين لغاش الشغلين انت لا عزيز سمنا الجروبي سمنا الجروبي تاجر تاجر سلمان النس إلى قوة وجزن على تبين الأسن على تبين الأسن عوين ده إلى قوين ده غاية ممكن فوق مجرالي عاكد تهدلتي عاكد سوهاغي عاكد هرادني قد مين أبن الأسن الأولي أرتفع صدرة نادي بلاسي الأرسل انت على قد انت اديك ندوالم عادي بيوم بيتي وق قولي أغرادي وق قولي الولادي وق وتدام قلبي يتيني إذا كسروني إذا كلاويك أوين غشوني فلا Special requests, hola. Easy. easy, easy, I don't do it, easy, I don't do it, easy, my interior, easy, easy, easy, easy, easy, easy, easy, take it easy. Easy, take it easy. Slung down, down, down, down, down, down, down, down. The shizzle, dizzle. Down. The shizzle, dizzle. I'm not afraid to die. e 06 minuti in questo momento, tutta una tirata. E quindi dopo aver ascoltato Madlib, Luz Gosse, e poi nel 2015 da Born in the Echoes, The Chemical Brother, IML Ritual. Venerdì 20 maggio, sabato 21 maggio, domenica 22 maggio 2022. Centro sociale occupato autogestito ex SNIA Viscosa, buon compleanno Radio Onda Rossa, 45 anni di disturbo nell'etere. Vi anticipiamo per ora Orasi, ma tante altre cose sono in costruzione, in via di definizione o addirittura di arrivo. Invece perfettamente definita Pankow, a sostegno di Radio Onda Rossa, venerdì 3 giugno 2022 alle 23 al Forte Prenestino, Pankow, e a seguire DJ Got Electro Industrial a cura di DJ Electrodo, di prove tecniche di trasmissione di sorde e in Noctibus Panis. Centro sociale occupato autogestito Forte Prenestino, via del Pino a 100 celle. Vi ricordiamo infine, ed è possibile farlo anche durante queste iniziative che vi abbiamo annunciato, vi ricordiamo la campagna di radioabbonamento di Radio Onda Rossa, 30 per 1000, 30 euro per 1000 di voi, e stiamo a cavallo. La programmazione in diretta di Radio Onda Rossa per questo mercoledì, boh, che cos'era, 4 di maggio, ormai approdato al 5 di maggio, finisce qui. Vi terrà compagnia però per tutta la notte la compagna somatica. E dai, la compagna automatica sonata. Che contratto viene somatica? Con le sue repliche, le sue selezioni strampalate musicali, manco fosse 25 o'clock. Invece le programmazioni in diretta vi prendono alle 8 di questa mattina con la lettura delle prime pagine dei giornali, della segna stampa, la segna stampa cittadina, le 10 redazionali. E poi dalle 14 alle 15 si prosegue con tutta scena cinema. Alle 16 Attica Brusso tra Black Music. Alle 17 alle Schiena del Sol, fine a una certa. Sicuramente non dopo le 20.15, quando invece comincia a tabula rasa la trasmissione sui libri di Radio Onda Rossa. Alle 22 i cuginetti da Postasia a chiudere. Il nostro saluto, il nostro abbraccio più fraterno, più... Come si dice, sarebbe da chiedere alle compagne, come si dice, più sorello. di sorellanza, insomma, a tutte coloro che sono costrette a condizioni di limitata libertà personale, il carcere, la latitanza, la clandestinità, gli arresti domiciliari, i centri di detenzione per migranti, i decreti amministrativi. Ascoltate pure voi la radio, che in qualche maniera ci pensiamo di tanto in tanto a chi, nemmeno tanto di tanto in tanto, ci pensiamo sempre a chi è privato della libertà e anche a chi è privata della libertà, ovviamente, e forse ancora di più. Vabbè, noi ce ne andiamo sotto la luna comunista, bella a tutti e a tutte. Mercoledì prossimo, quindi, probabilmente a netto di conferme, non lo diamo ancora per scontatissimo, però insomma l'accordo c'è. La morte, L'apostrofo a morte, che ci presenta un po' di robe qua in studio a Radio Onda Rossa, 25 o'clock, bella a tutti e a tutti, a mercoledì prossimo. dreams, I'll share our dreams, I'll share our dreams.